Oggi pomeriggio alle 5 e mezzo avremo questo incontro che abbiamo chiesto stamattina come urgente all'assessore alla casa Milena Naldi. Le richieste sono specifiche sul nucleo familiare coinvolto nello sfratto per morosità di stamattina, quindi che si trovano delle soluzioni entro la prossima data fissata per l'accesso dell'ufficiale giudiziario, che sarà venerdì mattina, quindi tra meno di 48 ore. Siamo stati aperti a qualsiasi tipo di soluzione, l'unica clausola è che queste soluzioni siano compatibili con il reddito della famiglia, quindi che il comune possa reperire un appartamento o dentro al suo patrimonio o anche dentro al mercato privato, come voglia, ma che svolga una funzione attiva nel reperimento di questo alloggio. Speriamo inoltre che questo primo tavolo specifico, insomma questo primo incontro urgente specifico, possa aprire invece un tavolo per una discussione più ampia sulla soluzione di questo tipo di problemi, al di là degli eventi singoli che ogni volta siamo costretti a portare all'attenzione con delle mobilitazioni sempre più eclatanti, fra l'altro, quindi si possa essere preso il sfratto a montare sui tetti e poi più avanti si vedrà che cosa ci porterà. Noi quello che chiediamo sono delle soluzioni, no? Quindi non delle soluzioni emergenziali di volta in volta, ma un vero piano che vada ad affrontare questa situazione. Gli sfratti stanno aumentando, questo tipo di situazione di questa famiglia è un esempio come tante altre centinaia. Per tutte queste chiediamo fondamentalmente due cose. La prima è una moratoria degli sfratti, ovvero un vero e proprio blocco degli sfratti, e qui è la prefettura che ci rivolgiamo, alla quale chiediamo di non inviare la forza pubblica per l'esecuzione degli sfratti. All'amministrazione chiediamo che vengano reperiti degli alloggi, almeno per la collocazione temporanea, no? Degli sfratti che comunque possono ancora avvenire, quindi per collocare queste famiglie in modo che non siano costrette a rimanere in mezzo a una strada, e che successivamente però si allestisca un vero e proprio piano casa che faccia in modo invece che non ci siano più questo tipo di emergenze sul nostro territorio.